America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Si apre una settimana importante sia dal punto di vista politico che dal punto di vista del dibattito americano su alcuni aspetti importanti per la società del paese. Ma cominciamo dalla politica. What a crowd. Thank you so much. Wow. Romney è riuscito a prendere Porto Rico. Porto Rico, ricordiamolo, non è uno stato americano, ma è uno stato che fa parte del Commonwealth americano e dunque non solo, ma vorrebbe diventare il 51esimo stato degli Stati Uniti d'America. Ci sono molte resistenze. Lo stesso Santorum ha fatto una gaffa, ha detto ma sì, forse possiamo considerarlo, però devono cominciare a parlare inglese. E insomma, queste gaffe non hanno aiutato Santorum nella sua corsa per Porto Rico. Dunque Porto Rico, per un accordo fra i partiti, è riuscito ad avere la possibilità di votare nelle primarie e di mandare dei delegati alla convention. Non vota però Porto Rico alle elezioni generali, quindi è un voto importante per le primarie, un voto importante per la nomination, e Romney ha vinto addirittura con l'83% dei voti. Santorum, per darvi un'idea, ha preso 2500 voti, Romney ne ha presi 25.000. Questo significa tutti e 23 i delegati assegnati a Porto Rico, e significa che Romney a questo punto sale a quota 521 nel totale dei delegati che ha accumulato finora, mentre Santorum si trova a quota 253. Ecco, come vedete, Romney ha oltre il doppio dei delegati, dunque è davvero vicino alla metà del viaggio Mitt Romney. La battaglia sarà dura, abbiamo il voto martedì, domani, in Illinois, è uno stato chiave perché ci sono 69 delegati. Romney si trova in testa, ma non molto in avanti. Il pronostico è che riesca a prendere l'Illinois, ma il modo in cui sono strutturate queste primarie è tale per cui il voto è proporzionale, dunque lui non riuscirà a prendere tutti i 69 delegati, perché per farlo dovrebbe avere una maggioranza superiore al 50%. Grosso dibattito all'interno del Partito Repubblicano per capire se Gingrich finalmente si ritira e dunque lascia un po' di spazio a Santorum, il quale continua a reclamare la fedeltà della base conservatrice del Partito Repubblicano. Dopo l'Illinois abbiamo l'appuntamento della Louisiana il 24 marzo, altri 46 delegati. Torniamo al sud, e nel sud Romney non fa molto bene, lo abbiamo detto più volte, ve lo ripeto, sarà una corsa lunga. Santorum non mollerà, Ron Paul non mollerà, rischiamo davvero di arrivare alla convention di Tampa proprio con il limite minimo dei delegati necessari per poter conquistare la nomination. C'è qualcuno che dice che forse per la prima volta dal 1976 si arriverà a una convention senza maggioranza di delegati, senza un chiaro vincitore, dunque dovrà essere una broker convention. Si parla di possibili ingressi di candidati esterni a quel punto, come Jeb Bush, ex governatore della Florida, fratello di George W., figlio dell'ex presidente. Si parla di Mitchell, governatore dell'Indiana. Si parla di Chris Christie, governatore del New Jersey. Ebbene, io non credo che ci sia una possibilità di questo genere, significherebbe in qualche modo smentire il processo delle primarie, quindi vuol dire che questi tre signori, quattro signori, poi all'inizio erano 7-8, hanno corso, hanno investito una gran quantità di energia, di denaro, per poi che cosa? Per poi cedere la poltrona e il passo a un esterno. Ecco, io non credo che succederà. Secondo me, se davvero succederà, sarà uno scandalo nazionale e comunque indebolirà il Partito Repubblicano. Vi segnalo un piccolo elemento su cui vorrei tornare nei prossimi giorni. C'è una cittadina della California che si chiama Scocton che è in gravi difficoltà, potrebbe fallire, ha 30 milioni che deve pagare in pensioni, forse non ce la farà. Perché ve lo segnalo? Perché se l'economia sta migliorando, se la borsa è vicina ai livelli massimi da quando scoppiò la crisi, se i dati economici che abbiamo visto sono incoraggianti, il tasso di disoccupazione è anche sceso vicino all'8%, c'è all'orizzonte il problema del disavanzo pubblico americano. È un problema molto serio, e se dovessimo cominciare ad osservare cittadine, municipalità che cominciano a fallire, il passaggio dalla saldezza di nervi al panico è breve, e se davvero dovesse esserci una situazione di crisi, di sfiducia da parte dei mercati, perché ricordiamolo, non si risolverà il problema del disavanzo pubblico fino a novembre, allora qualche rischio per Barack Obama potrebbe esserci. Ma passiamo ad altro, passiamo a un paio di eventi che stanno tormentando la coscienza americana. America 24. Sono degli eventi che legano episodi completamente diversi fra loro da raptus di follia. Cominciamo dal primo, cominciamo dall'autore della strage di Kandahar, Robert Bales, un sergente di 38 anni, sposato, padre di due figli. Ebbene, comincia a prendere corpo la storia che forse è stato preso da un raptus di follia, perché questo signore è stato un eroe di guerra, una famiglia, due figli, aveva dei problemi a casa, sembra che dovesse vendere la casa perché non ce la faceva pagare il mutuo, era la sua quarta uscita di guerra. 38 anni, in 10 anni, in 11 anni di servizio. Dunque è possibile che davvero abbia avuto un raptus di follia. This year, 2012, is the year that we can finally fulfill it. And if we succeed, we change the course of human history. Raptus di follia anche per Jason Russell. È una specie di missionario che ha lanciato una missione personale per catturare Joseph Kony, un ribelle dell'Uganda che cattura bambini, ne ha catturati a migliaia, li uccide oppure li costringe a diventare soldati bambini, cattura anche le ragazzine e le trasforma in schiave sessuali. Ecco, questo Jason Russell si è dedicato a questa causa con straordinaria dedizione, soprattutto ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica, ha fatto un video, pensate che ha avuto 81 milioni di contatti e credo che sia uno dei numeri più alti in assoluto su YouTube, in cui si racconta la storia di Kony. Ebbene, che è successo? Che questo Jason Russell, considerato una sorta di idolo, di esempio dell'altruismo, una sorta di santo che ha dedicato la sua vita per la libertà di questi bambini, è stato arrestato dalla polizia perché di nuovo anche lui, in preda ad un raptus di follia, si è spogliato nudo, ha cominciato a correre per le strade di San Diego, la città dove abita in California, e si vede questo video dove lui si agita avanti e indietro, fa degli esercizi, comincia a battere le mani, invoca il diavolo, se la prende con Siri, la voce elettronica del telefonino iPhone, e a un certo punto viene fermato dalla polizia, arrestato e accusato non soltanto di aver disturbato la quiete pubblica, ma di essersi masturbato davanti a tutti. Ecco, devo dire, è una cosa che ha sconvolto l'America, perché è come se un santo andasse all'improvviso all'inferno. Di nuovo, raptus di follia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Carnegie Hall, New York, il grande tempio della musica, festeggia quest'anno il suo 120° anniversario. Per l'occasione c'è un calendario ricco di eventi a partire dalla serata di gala, presentata da James Taylor, Fire and Rain. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.